Negli ultimi anni siamo riusciti a fare un passo in avanti notevole, seppur insufficiente rispetto ai diritti civili, e mi riferisco ovviamente alla legge Cirinale, alla legge sugli unioni civili, un passo in avanti nella direzione giusta, che però non ci ha portato alla completa uguaglianza. Quella legge andrebbe migliorata, però già dalle prime avvisaglie, e già l'hanno annunciato, sembra che quella legge la prendano come simbolo di ciò che bisogna assolutamente cambiare per migliorare questa società. Roberto Fontana e molti altri, purtroppo, della compagine della Lega soprattutto, hanno fatto in qualche modo la loro fortuna denunciando un lassismo e un relativismo sociale che bisogna in qualche modo mettere in riga. Loro hanno detto che la legge sugli unioni civili vorranno cambiarla. Io, come dire, ho molte speranze che non ci riescano, perché la legge ha forti fondamenti giuridici, è fortemente ancorata all'articolo 2 e all'articolo 3 della Carta Costituzionale, è una risposta del Parlamento ha delle sollecitazioni, anzi ha degli ordini veri e propri della Corte Costituzionale, che in varie sentenze ha detto della necessità di questa legge, e quindi è molto molto forte, molto ben strutturata dal punto di vista giuridico. Ci saranno dei tentativi di svuotarla in qualche modo, di toglierne delle parti, di fare dei gesti simbolici, tipo, il primo esempio che mi viene in mente, eliminare la reversibilità delle pensioni, per dire, o altri aspetti che in qualche modo portano a colpire dal punto di vista simbolico e dal punto di vista culturale questa legge, questa grande legge di civiltà, oltre che dal punto di vista strettamente materiale, ovviamente. E questo proprio per dare un segno del tipo: adesso vi mettiamo in riga noi, adesso questi gay, queste lesbiche che vogliono fare le famiglie, che vogliono essere normali come tutti quanti, vanno rimessi al loro posto. Questo è quello che hanno annunciato e che spero non riusciranno mai a fare. Di sicuro troveranno il contrasto forte e resistente di associazioni come la mia, di Alci Gay, e di tutte le associazioni LGBT italiane, e io spero anche di tutte le persone di buona volontà che ci sono in Italia, sono tantissime, le persone laiche, le persone che sanno cosa vuol dire il concetto di uguaglianza, il concetto di pace sociale, il concetto di civiltà e democrazia di un popolo. Noi siamo pronti, ovviamente, come dire, abbiamo alle nostre spalle una storia di lotta e di resistenza, come dire, molto forte, siamo un po' abituati a tutto questo. Noi dobbiamo risponderare, se è necessario, forme di protesta, forme di contrasto, forme di resistenza che usavamo 10-20 anni fa. Siamo prontissimi a fare questo. Dalla parte del diritto di autodeterminarsi delle donne, visto che Fontana comunque attacca anche il diritto delle donne di abortire, lei cosa pensa? Ci potrà essere un ritorno addirittura ad una situazione che avevamo 40 anni fa, o un tentativo di ritorno? Il messaggio purtroppo è quello, è un messaggio trasversale che va contro l'autodeterminazione della donna. Questo Fontana è un anti-abortista, tra le altre cose, perché non è neanche l'unico dei suoi difetti, ed è perfettamente nell'onda di quelli che dicono no ai gay, no all'autodeterminazione delle donne, no agli immigrati, a questi personaggi neri che vengono qua e che vengono a mangiare a sbafo sulle spalle dei poveri italiani. Come dire, è l'odio verso il diverso, e la diversità è per razza, per genere, il genere femminile. Le donne devono in qualche modo essere controllate e devono essere sottomesse, i gay e le lesbiche no, e le persone trans non ne parliamo, e queste persone di colore che hanno la pelle diversa da noi e sono anche poveri, attenzione, questi sono anche poveri, ed è un'altra delle loro condizioni per cui a loro ovviamente danno fastidio, in qualche modo danno fastidio, devono essere eliminati, devono essere epurati. Questa è la cifra della parte leghista, perlomeno del governo. C'è Fontana, ovviamente, che è il risultato, è veronese Fontana, attenzione, dalle parti di Verona è ancora molto forte un sentimento di nostalgia per la Repubblica di Salò, ci sono tantissimi gruppi di cattolici integralisti, quelli con i nomi strani in latino, quelli che fanno appunto le messe in latino, quelli che ogni volta che c'è un pride o qualcosa del genere fanno le messe di riparazione, è il centro di diffusione di quelle cose strane che erano, che sono, le sentinelle in piedi, i bus anti-gender, che si legano tutti assieme, si legano per dire anche agli hooligans del Verona Calcio, lui è il risultato di quella roba lì, e averlo fatto ministro è molto molto pericoloso per tutti quanti, per una società che non vuole saperne di questi veleni. Purtroppo lui, con la sua presenza, rischia di rimettere di nuovo veleni che in qualche modo forse eravamo riusciti a contrastare. E questo per te è sintomatico del fatto anche che magari il Movimento 5 Stelle stesso potrebbe spostarsi in quella direzione, dato che comunque non erano mai stati di quel tipo di linea? Il fatto che abbiano accettato senza battere il ciglio una figura come Lorenzo Fontana, ma anche il fatto che abbiano accettato, è troppo, cioè per forza, ma però insomma si poteva anche in qualche modo forse evitare, un ministro dell'interno come Salvini, mi è piaciuto, e io spero che loro riescano in qualche modo a non farsi trascinare in questo ritorno alla legge e all'ordine e all'epurazione di qualsiasi cosa che sia percepita come diversità. Non lo so cosa faranno i 5 Stelle, è sinceramente molto difficile decifrarli. All'interno del Movimento 5 Stelle ci sono chiaramente varie anime, il fatto di essere in questo momento al governo con una forza nettamente di destra, della peggiore destra italiana, spero che in qualche modo loro riescano a fare da contraltare, a fare da sponda alle esagerazioni e che non si facciano trascinare nel gorgo che porterebbe all'Italia a situazioni orrende tipo l'Ungheria o la Russia o appunto un'Italia che abbiamo visto nel nostro passato e che sinceramente a cui non vogliamo assolutamente ritornare.